Ehi, non odiate me, no, odiate quello che dico. Perché? Tutta la merda che ho fatto mi rende ricco. Italiano del bel paese, tira, ma non tira mai fine mese. A Natale fa spese con l'arnese. Le troie in strada non ci sono più. Offendevano il presidente e la sua gioventù. Poi esce una tetta in fascia protetta e fra le ritrovo vestite uguali nelle sue TV. È il male, condannano la morale di chi scrive. Vivono il giorno in chiesa e la notte al club prive. Riempire i fallimenti facendo un bambino. Credere che l'amore come nei film di Muccino. È il peso dell'apatia fra è disperazione nel vuoto delle persone che credono alla magia. Sì, sei numeri in Italia, li giochi alla lotteria. La vita è una merda, sì, ma la vita non è la mia. Oh! Per il dinero sono un vero animale, un incubo sopra il tuo canale. Mi vedi brillare senza un lavoro normale, valore morale. Per il dinero sono un vero animale, un incubo sopra il tuo giornale. Voglio solo brillare senza un lavoro normale, valore morale. Mamma, scusami se faccio quello che faccio. Vedo quello che vedo, torno a casa uno straccio. Se parlo a servi in paradiso e signori all'inferno. Se mi si è gelato il sangue dopo un altro inverno. Stare senza soldi è un brutto sogno. Tombola, mani bucate, Gesù sopra il Golgota. Le tacche a spillo 12, in realtà è una suora. Seduti su 70.000, lui va a 30 all'ora. Padroni, schiavi, guardie, ladri, sorti tirati a dadi. Rabbia a 100 gradi, donna uguale dramma. Punta la lama e preme, le vuole discendenza. Io invece spargo il seme. Parole troppo grosse in bocca ti soffocheranno. Racconto il lato B perché lo vivo e fra lo sanno. Sono il peggiore ma nego tutto da buon cristiano. E c'è più gusto essere italiano. Per il dinero sono un vero animale, un incubo sopra il tuo canale. Mi vedi brillare senza un lavoro normale, valore morale. Per il dinero sono un vero animale, un incubo sopra il tuo giornale. Voglio solo brillare senza un lavoro normale, valore morale. È l'Italia che si guarda negli specchi, sì, e vive del passato come un balordo che truffa i vecchi. Il sesso della velina, il prezzo della cinquina, l'attrezzo per la rapina, il pezzo e la catenina. Ehi, e muoio in un albergo infimo se non sto in cima, fatto di qualche porcheria che finisce per Ina. O farò il papa su una spiaggia di Lima, in elicottero dal Duomo dopo il furto della Madonnina. La vita è una puttana, i soldi li vuole prima, sì, poi lava il senso di colpa in una piscina. Con quale ipocrisia mi accusa, non siamo in USA, fra qua la violenza non si usa. Oh, testa fusa, anima contusa, lei disprezza, non mi ama, ma mente mi fa le fusa. Tu goditi le pause, io spingo su quel pedale, la Milano per male, l'incubo nazionale. Per il dinero sono un vero animale, un incubo sopra il tuo canale. Mi vedi brillare senza un lavoro normale, valore morale. Per il dinero sono un vero animale, un incubo sopra il tuo giornale. Voglio solo brillare senza un lavoro normale, valore morale.